Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Frey, ben ritrovate e ben ritrovati su Valloon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Come ogni settimana, appuntamento con la storia a chiacchiere, la storia letta sui libri, la storia ascoltata dalle canzoni. E finalmente torniamo a parlare di letteratura. È un po' che non lo facevamo, come sapete la letteratura è uno dei canali con cui ci piace entrare all'interno del racconto della storia e per questa puntata abbiamo fatto una scelta particolare. Nel senso che, come sapete, noi siamo una trasmissione quasi di storia contemporanea, rarissimi sono i nostri passaggi nel passato passato, e in questa puntata ci spostiamo ben lontano e andiamo a quella che, se poi mi correggerà chi di dovere, però è l'ultima data dell'epoca degli eroi, quindi un tempo veramente molto lontano. Siamo andati infatti nel mondo dell'epica, andando a pescare un libro della casa editrice Odoia, una casa editrice che ci sta molto simpatica, che si intitola Profugus, misteri, migrazioni e popoli del mare nell'Eneide di Virgilio, a cura di Franco Pezzini, a cui diamo il benvenuto. Ciao Franco, benvenuto su Valloon. Grazie. Allora Franco, noi ti abbiamo conosciuto virtualmente, diciamo, come uno degli animatori del sito di Carmilla, sì. una bellissima rivista online che organizza da qualche anno uno dei suoi appuntamenti annuali qua a Bologna anche nell'ultimo appuntamento bolognese, se la memoria non mi inganna, ti eri occupato del tuo filone tradizionale, che è la narrativa di genere, è qualcosa che è più orientato all'Ottocento. Come mai ti sei spostato così lontano? E qual è stato un po' lo spunto con cui sei arrivato a parlare anche di epica classica? Ma grazie intanto dell'attenzione. Allora, fondamentalmente io sono uno studioso dell'immaginario, quindi diciamo che a me interessano le declinazioni dell'immaginario come una serie di miti, perché possiamo parlare proprio di mito nel senso classico del termine, hanno lavorato sulla formazione del nostro modo di pensare. Le opere letterarie sono tante volte delle straordinarie macchine per pensare, che possono portare delle provocazioni anche di grosso interesse. Allora io di solito, o perlomeno più frequentemente, mi occupo di immaginario, diciamo, del 7-800, ecco, grosso modo, però in realtà mi occupo anche dell'immaginario antico, soprattutto greco e latino. E l'Eneide, da questo punto di vista, è una straordinaria sfida. Una straordinaria sfida perché è un testo che, al di là del fatto che è bellissimo, questo è un aspetto che tante volte a scuola, dove tante volte viene non tanto proposto quanto inflitto, non si coglie magari sempre questo aspetto, anche perché ci sono delle scelte ovviamente, ma se noi leggiamo l'Eneide, lo leggiamo come veramente un grande romanzo, ci accorgiamo di tutta una serie di dimensioni che sono estremamente vitali, estremamente provocatorie. A parte quelle che forse magari ci colpiscono anche sull'oggi, quindi il tema dai troiani che si lamentano a Cartagine che gli venga interdetto lo spizium arene, vengono bloccati sulla spiaggia dalla polizia di frontiera cartaginese, e ecco, queste sono diciamo provocazioni che magari ci toccano nell'immediato, ma c'è un discorso che secondo me è di grande interesse, legato al fatto, si parla di storia moderna, ma ecco, l'Eneide ci riporta almeno virtualmente, almeno nella storia che narra, a quella enorme crisi che si è verificata nel 1200 avanti Cristo, che è stata la crisi più grande, la crisi peggiore e più traumatica del mondo antico, fine dell'età del bronzo, una cinquantina d'anni mal contati, insomma, in cui il Mediterraneo esplode. Ecco, guarda Franco, scusa, ti interrompo perché stiamo già entrando nel vivo della conversazione. Sono passati 4 minuti, proponiamo ai nostri ascoltatori uno dei nostri ascolti, per l'appunto, che è dedicato per l'appunto alla tematica di Enea. Andiamo a prendere un pezzo che su queste frequenze avrete sentito già spesso, degli Assalti Frontali, il Enea Super Rap. Questo è rap di Enea per le scuole elementari. Questo è rap di Enea, oh Enea Super Rap. Questo è rap di Enea, è un ripasso per somari. C'ho un'idea, disse Enea, c'ho un'idea. E prese la parola in assemblea, c'ho un'idea, disse Enea. Stanotte ci imbarchiamo con l'alta marea. Canto le armi, il primo eroe che da una spiaggia giunse in Italia, lui sì che se la viaggia. Profugo per suo destino, oggi come oggi sarebbe un clandestino. Enea, ma dove vai? Enea, ma dove vai? Senza il permesso di soggiorno, per te sono guai. Forza, partiamo, che Eolo ci aiuti. Il mare fa paura, ma non stiamo qua seduti. Ci sono i venti, le onde alte, la tempesta, ma dobbiamo scappare o ci fanno la festa. Mia moglie è morta, mio padre sulle spalle, io la schiena rotta, girano le palle. Ricominciamo sì, e da zero, scappando da una guerra che abbiamo perso davvero. Ma la guerra è bella e non può finire, ovunque andremo sarà bella da morire. C'ho un'idea, disse Enea, c'ho un'idea. E prese la parola in assemblea, c'ho un'idea, disse Enea. Stanotte ci imbarchiamo con l'alta marea. Cantami un musa delle cause dell'offesa, quanto può un eroe patire per trovare casa. Partendo da Troia, passando per Cartagine, per raccontare a tutti qual è la nostra origine. Attraverso Scilla, Carinti e il Tevere, un'epopea del genere non sarà mai cenere. Resterà nel tempo quanto fu lo strazio, quanta guerra si patì per consegnare a Lazio una città che è la nostra eterna città, tirata su da chi fuggì in esilio per necessità. In giro a fare danni per 7 lunghi anni, portando in mano lo scudo di Vulcano. E nel metallo sta sbalzata una profezia, dice che Roma sarà tutta mia. Sfideremo perfino a Polifemo, non so nessuno, ma non sono mica il cielo. C'ho un'idea, disse Enea, c'ho un'idea. E prese la parola in assemblea, c'ho un'idea, disse Enea. Stanotte ci imbarchiamo con l'alta marea. Così quando vediamo in giro uno straniero, pensiamo a Enea, a Virgilio e all'Ulisse di Omero. Si chiami Zapatero, si chiami Sarkozy, diciamo a sti signori qui, chiamiamo i CPT, lasciamo free, sì, free. Chi ha un profugo destino, non chiamiamo mai un uomo clandestino. Perché dietro di uno c'è sempre un'idea che fa grande il mondo, come fu quella di Enea. C'ho un'idea, disse Enea, c'ho un'idea. E prese la parola in assemblea, c'ho un'idea, disse Enea. Stanotte ci imbarchiamo con l'alta marea. Sangue, guerrieri, eroi e ladri, l'Enei del racconto dei padri, sotto queste mura di tutti noi romani, scorre anche il sangue di popoli lontani. E ci scusi la maestra per qualche licenza, non proprio all'altezza, ma capisca anche l'urgenza. Virgilio era un latino che scrisse un gran poema, noi facciamo rap che per sti ragazzi è crema. Bene, siete su Vallun, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, e stiamo chiacchierando con Franco Pezzini, autore di uno dei volumi della collana Classici Pop di Odoia, che è dedicato all'Eneide. Abbiamo interrotto Franco per mettere un pezzo musicale proprio mentre ci stava parlando di un punto caldo della storia antica. E la storia antica molto spesso noi ne parliamo pochissimo, non ne parliamo mai, e questa è una bella occasione. È percepita come qualcosa di lontanissimo, ma che ci racconta qualcosa di profondamente importante. E Franco stava parlando esattamente del punto, del quel volgere d'anni dopo il 1200 che, correggimi se sbaglio, aprono poi le porte al Medioevo ellenico, giusto? Sì, 1200 avanti Cristo, ma in realtà la situazione di crisi è generalizzata. La crisi dell'età del bronzo è un collasso di sistema che innescato probabilmente da cause climatiche, che in realtà porta una serie di aspetti critici su tanti fronti. Questo è di estremo interesse questo, perché se noi pensiamo che i grandi poemi costitutivi in fondo dell'immaginario poi a cui facciamo ancora riferimento, cioè da una parte i grandi poemi su Troia, quindi Iliade, Odissea, e poi più tardi arriva l'Eneide, ma sempre sulla stessa materia, e dall'altra i canti di gesta del Pentateuco, quello che poi sarà una base su cui gli scribi di Gerusalemme comporranno i primi libri biblici, questo si riferisce proprio in prima battuta a questo momento di crisi, che è un momento di crisi spaventoso. Noi oggi ci lamentiamo tante volte che la cultura, la letteratura, ma in generale la nostra cultura, non ci darebbe degli strumenti per affrontare la crisi in cui noi ci troviamo a vivere. In realtà se noi andiamo a analizzare, degli strumenti ci sono, certamente non sono soluzioni premasticate, ma proprio gli uomini, in qualche modo gli echi di quell'altra grande crisi, una crisi climatica, una crisi politica, una crisi bellica, una crisi culturale, una crisi religiosa, perché ovviamente queste erano si incardinavano una nell'altra. Pensiamo che è un'epoca in cui esplodono le teologie, nel senso che le teologie precedenti non venivano più avvertite come in grado, gli dèi non erano più, ci si domandava perché gli dèi evidentemente permettessero tutto questo, allora forse c'era qualche cosa che non funzionava. Scusa, ti interrompo, perché questo naturalmente mi fa venire in mente questa atmosfera che tu evichi. Io naturalmente non credo alla ciclicità della storia, nel vero senso della parola, immagino che neanche tu alludessi a quello, però colpiva perché mi sembrava di sentire riraccontato poi quello che succederà fra il secondo e il terzo secolo dopo Cristo poi. E spostandoci, guarda, entriamo a Roma, sì. A Roma e sul lavoro che fa Virgilio su questa complessa materia, perché tu hai delineato in maniera molto chiara un'atmosfera epica nel vero senso della parola, in cui si delinea questo grosso cambiamento di cui noi troviamo traccia nei poemi epici e con poi un Virgilio che questa materia la traghetta per costruire il suo poema. Sì, infatti il problema era che all'epoca di Virgilio questo corpus mitico che noi in parte, cioè che noi riceviamo attraverso infiniti manuali, infinite eccetera, era in uno stato estremamente magmatico. A un certo punto col 31 avanti Cristo con Ottaviano che vince le ultime resistenze insomma di rivali politici e finisce la stagione delle guerre civili a Roma, si comincia a respirare un clima nuovo e Ottaviano, in particolare grazie anche al consiglio del suo ministro della propaganda Mecenate, intuisce che Virgilio, che questo poeta che sta cominciando a diventare importante a Roma, può essere l'uomo giusto per comporre un poema celebrativo che in qualche modo celebri non solo Roma, ma la stessa dinastia di Augusto. Virgilio parte pieno di entusiasmo ed è estremamente interessante questo, ed è estremamente riduttivo vedere Virgilio come il servo del potere, nel senso che in quel momento a Roma, dopo secoli letteralmente di guerre esterne e guerre interne, era veramente arrivata la pace. E quindi per Virgilio, che oltretutto era un uomo timido, possiamo immaginare anche di una robusta ingenuità sul piano delle dinamiche politiche, eccetera. Per Virgilio veramente questo è un momento di grande entusiasmo, per cui la commissione che gli arriva, che è il classico, la classica richiesta che non può rifiutare, ma allo stesso momento ovviamente lo onora moltissimo. Il problema qual è? Che dopo Virgilio ha iniziato a lavorare da un anno più o meno e questo nuovo corso inizia a rivelare in realtà le stesse polveri, le stesse ambiguità di infiniti altri corsi politici, per cui un amico carissimo di Virgilio, prefetto d'Egitto, Cornelio Gallo, si trova cade in disgrazia davanti ad Ottaviano e si trova a uccidersi. Poi fra l'altro, scusa Franco, però cioè in effetti Ottaviano poi dopo, come Augusto, prenderà poi concretamente più potere di quello che i tirannicidi temevano, sì, che Cesare potesse prendere con la sua dittatura vita, però facendolo, sì, in maniera più formalmente corretta, non lo so. Certo, no, in realtà appunto probabilmente Gallo aveva fatto dei passi falsi e viene sacrificato all'immagine pubblica di continuità, per cui anche da questo punto di vista il gioco è particolarmente drammatico. Noi non sappiamo ovviamente che cosa Virgilio pensasse, a parte che l'uomo era talmente timido e talmente... Però possiamo immaginare che questo segni una grossa crisi, e in effetti nell'Eneide questo noi lo vediamo. Negli ultimi libri dell'Eneide, che sono i primi a essere stati scritti, almeno questa è la ricostruzione che generalmente si fa, Enea è questo grande capo militare che combatte in questa guerra in Italia, che in qualche modo dovrebbe orecchiare i ritmi iliadici, insomma i ritmi delle guerre di Troia, eccetera. Ma nella prima parte invece, nella prima parte dell'Eneide, che è quella che viene scritta probabilmente per ultima, diciamo, lo spirito cambia, Enea si diventa più ambiguo, più fragile, gli dèi diventano più distratti. Guarda, ti stoppo un attimo, ci sentiamo, sì, un pezzo musicale, perché poi con questa ti faccio un'ultima domanda con cui andiamo a chiudere. Perfetto. Siamo sempre sui racconti musicali di Enea, e è stata citata la guerra sul suolo italico che fa Enea, per cui ci ascoltiamo una canzone che riprende due personaggi, Eurialo e Niso, se ce la possiamo fare, e riraccontati dai Gang in chiave contemporanea. La notte era chiara, la luna un grande lume, Eurialo e Niso uscirono dal campo verso il fiume. E scesero dal monte, lo zaino sulle spalle, dovevan far saltare il ponte a Serravalle. Eurialo era un fornaio e Niso uno studente, scapparono in montagna all'8 di settembre. I boschi già dormivano, ma un gufo li avvisava, c'era un posto di blocco in fondo a quella strada. Disse a Niso, asciugandosi la fronte, ci sono due tedeschi di guardia sopra il ponte. La neve era caduta e il freddo la induriva, ma aveva scarpe di feltro e nessuno li sentiva. Le sentinelle erano incantate dalla luna, fu facile sorprenderle tagliandogli la fortuna. Una di loro aveva una spilla sul mantello, Eurialo la raccolse e se la mise sul cappello. Seicento, un'aquila imperiale splendeva nella notte più di un'aurora boreale. Fu così che lo videro i cani e gli aguzzini che volevano vendicare i camerati uccisi. Euryalo fu bloccato in mezzo a una radura, Niso stava nascosto, coperto di paura. Euryalo circondarono, coprendolo di sputo. A lungo ci giocarono, come fa il gatto col topo. Bene, siete sempre su Vallun, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, che potete ascoltare in replica sul nostro sito www.radiovallun.info, e stiamo chiacchierando con Franco Pezzini a proposito di Enide. Finalmente ne posso parlare anche fuori scuola. Allora Franco, prima ti avevo interrotto per la pausa musicale mentre ci stavi parlando di questo Enea della prima parte del libro. Purtroppo il tempo sta finendo, però vorrei chiederti proprio questo: Enea più fragile è un Enea che ci viene presentato dal Proemio come Profugus Pius Iactatus. Qual è l'Enea che racconta Virgilio e qual è l'Enea che hai incontrato tu scrivendo il tuo libro? Sì, io ho lavorato su due immagini di Enea che mi sono arrivate, in qualche modo con cui sono cresciuto. Una, quella del grande sceneggiato della Rai, di quando io ero bambino, dove è Enea interpretato da Giulio Brogi, e c'è questo Enea molto meditabondo, questo Enea malinconico, che all'epoca mi aveva colpito molto. Credo che questa sia stata una cifra molto interessante, molto, in fondo nessuno avrebbe costretto Virgilio a fare l'Enea, a scrivere l'Enea che ci arriva, questa Enea che tante volte non ce la fa, questa Enea che sbaglia, questa Enea che va in crisi. E l'altro è ovviamente quello incontrato, penso soprattutto in liceo, perché ho avuto uno straordinario professore di lettere, che è l'Enea che si confronta in particolare, io penso, perché appunto su questo poi avevamo dedicato parecchio tempo, che si confronta con questa storia d'amore con Didone, che in realtà è una storia d'amore sghemba, una storia d'amore in cui Enea, come dire, c'è cascato dentro, è una sorta di fallimento esistenziale più che ancora che sentimentale, perché lui in realtà questa grande passione per Didone noi non la cogliamo, mentre cogliamo molto bene la passione di lei. Questo Virgilio ce lo costruisce molto bene e c'è anche un aspetto, questa straordinaria figura di Didone che al lettore, di cui il lettore si innamora. Nello sceneggiato era interpretata da una straordinaria Olga Carlatos, che ha animato poi i miei sogni di ragazzino per tanto tempo, insomma. Per cui ecco questa dimensione, infatti poi è vero che tante volte con letture un po' distratte si banalizza molto tutto questo, per cui si dice Enea è una figura un po' di gesso, eccetera. Non è vero, è che Enea è una figura in crisi, è una figura in progress. Certamente noi leggiamo l'Eneide come un poema in qualche modo non solo incompiuto, ma addirittura con forti contraddizioni interne, perché è in making of, potremmo dire. E quindi questo che noi vediamo anche della figura di Enea in qualche modo risponde anche a questa situazione un po' disgregata del poema, che però è anche una causa di grande fascino. Cioè, se noi leggiamo l'Eneide sequenzialmente ci accorgiamo di una serie di discrasie, di una serie di contraddizioni, di una serie, e che però ci portano a mettere in qualche modo, a buttare gli occhi sui cassetti di lavoro di Virgilio. Ecco, questo è... scusa, ti devo reinterrompere, questa certo. volta è l'ultima interruzione, perché il nostro tempo è finito per me, con grande dispiacere, perché mi stavo godendo proprio questa lezione sull'Eneide, per cui grazie mille a Franco Pezzini per essere stato con noi. E grazie a voi. Per essere stato con Vallun. Noi, cari ascoltatori e ascoltatrici, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti e a tutti da Frey. Ciao. Ciao.